Mancano ormai poco più di sei mesi e qualche giorno alla celebrazione ufficiale del centenario di San Pio X il prossimo 20 agosto con la Santa Messa Solenne nella serata. Nella puntata di oggi della nostra rubrica dedicata al centenario di San Pio X, introdotta come sempre dalle note dell'inno ufficiale, proponiamo un percorso che è geografico ma è anche un percorso spirituale proprio nei luoghi e nei tempi di San Pio X. Ovviamente la prima tappa è il paese natale, Riese, che all'epoca si chiamava solo Riese, poi è diventato Riese Pio X, nella casa dove era nato il 2 giugno del 1835 e poi nel museo. Poi c'è la chiesa parrocchiale dove era stato battezzato il giorno dopo, il 3 giugno, dove ricevette la prima comunione, dove celebrò la prima Santa Messa Solenne il 19 settembre del 1858. E poi il vicino santuario delle Cendrole, che era una sua meta di preghiera molto frequentata. Seconda tappa, a poca distanza, è Asolo, posta sopra un colle, in questi giorni in difficoltà per le frane. Nella cattedrale di Santa Maria Assunta, nei secoli passati Asolo fu anche sede vescovile, fu diocesi, Giuseppe Sarto lì fu cresimato, era il 1 settembre 1845, dal fratello dello scultore e pittore Antonio Canova, il vescovo Giovanni Battista Sartori Canova. Il 20 settembre 1851 fece rito d'ingresso nello stato clericale con la tonsura. Ad Asolo poi merita una visita anche l'antica rocca da cui ammirare il Monte Grappa. E proprio sul Monte Grappa, poi da cardinale, da patriarca di Venezia, Giuseppe Sarto salì, era il 4 agosto 1901, per la benedizione del sacello della statua della Vergine. Altra tappa è quella di Padova, dove Giuseppe Sarto studiò presso il seminario. Il giovane Giuseppe aveva studiato lì dal 1850 al 1858, preparandosi all'ordinazione sacerdotale. Nella cappella del seminario di Padova c'è un altare dedicato a lui e all'interno della cattedrale la cappella di San Pio X. E poi c'è anche la sede degli uffici diocesani di Padova in via Vescovado, che si chiama proprio Casa San Pio X. Altra tappa, tornando nel Trevigiano, è quella di Castelfranco Veneto, il Duomo di Santa Maria Assunta e San Liberale. Lì Giuseppe Sarto fu ordinato sacerdote, era il 19 settembre 1858, dall'allora vescovo il beato Giovanni Antonio Farina. Sempre a Castelfranco, negli anni precedenti, Giuseppe Melchiorre, era il suo secondo nome, aveva compiuto gli studi ginnasiali e questo viene ricordato da un'apposita targa nell'edificio adiacente alla chiesa di San Giacomo. E poi inizia la sua vita appunto sacerdotale a Tombolo. Giuseppe Sarto fu il cappellano per 9 anni, dal 58 al 67. All'interno c'è anche un piccolo museo a lui dedicato. Diventò parroco a Salzano in provincia di Venezia per altri 9 anni. 8 e quasi 9, dal 1867 al 1875. Lì scrisse un catechismo per i fanciulli che poi divenne la base per il catechismo universale. C'è la chiesa parrocchiale, ovviamente interessante da vedere, ma soprattutto il museo San Pio X, ampliato in occasione del giubileo del 2000. A Treviso c'è la cattedrale, ovviamente, dove lui fu membro dei canonici. Ci sono gli affreschi a lui dedicati, c'è anche una statua, un altare. Nella libreria delle Paoline c'è anche una lapide che ricorda la sede dell'ufficio di cancelleria che era utilizzato proprio da Giuseppe Sarto. La biblioteca dedicata a San Pio X raccoglie alcuni volumi donati dal pontefice al seminario vescovile. E nel primo chiostro è visitabile la cappella del Santo Curato d'Ars, dove è custodita una reliquia importante, il crocifisso che il Santo Curato tenne fino alla morte, donato dal Vescovo di Lione a Papa Pio X, che a sua volta ne fece dono al seminario di Treviso. E poi Mantova, dove Giuseppe Sarto fu vescovo, eletto da Papa Leone XIII dal 1884 al 1893. Ovviamente poi Venezia, patriarcato dal 1894 fino al 1903 e poi Roma, dove attualmente è sepolto. È stato beatificato il 3 giugno del 51 e proclamato santo nel maggio del 1954. Questo è un percorso geografico dunque che vi invitiamo a fare. Due appuntamenti da segnare in agenda: l'8 marzo nella chiesa parrocchiale di Riese un concerto per voce e organo col maestro Daniele Carretta dal titolo Verso il XX secolo, il canto solistico sacro nel contesto europeo. Lo stesso 8 marzo la chiesa dei Santi Apostoli a Venezia alle 17 l'incontro spirituale su San Pio X, la devozione mariana, i rapporti con gli ordini religiosi e i santi, anche qui con un momento musicale. E poi quel sabato, il primo sabato di Quaresima, inizieranno dalla domenica successiva 9 marzo i pellegrinaggi per le parrocchie della diocesi di Treviso proprio nella chiesa parrocchiale di Riese.